io ho sempre avuto un quoziente di intelligente leggermente superiore alla media, diciamo. Ora, così la cagarella degli esami, eccola là, che ma tu chiedi a me i due ma movimenti. Se te lo dico, chiedi a me che so. Intanto la promuovo e lei ufficialmente fa parte del corso di laurea in medicina e chirurgia perché fa tutto superflusso. Me la laurea qua sul campo? Un bel prende lode, se lo merita. Come mai sole non... Quindi io in questo momento sono un pochino più intelligente di Deborah Rosciani e con questa così. E con questa. Se qualcuno chiede a me cosa mai è l'R3 lo... Qua ti volevo, cara mia, però ti posso qua dire che cade l'asino. No, non sei un asinello, dai. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Il mutuo credo sia tipo una specie di carta. No, il bancomat è quella scheda dove tu paghi un po' di meno. Spread, vediamo. Spettacolare come sempre il candore dei bambini. Educazione finanziaria, quante volte negli ultimi anni abbiamo sentito parlare di questo concetto? Diciamo che gli italiani non hanno più scuse, ovunque si girino c'è qualche soggetto che può aiutarvi a conoscere le questioni più difficili, almeno per noi che appartengono al mondo del risparmio e dell'investimento. Qualche anno fa era certamente un po' più complicato, oggi ci sono i consulenti, da quelli indipendenti ai promotori finanziari, ci sono le associazioni dei consumatori, ci sono i giornali specializzati che stanno diventando sempre più divulgativi, lo fa anche il Sole 24 Ore, ci sono le iniziative della Banca d'Italia, della Consob, insomma ci sono molte opportunità che ci permettono di recuperare almeno le nozioni di base dell'economia e della finanza da trasferire poi alle nostre scelte personali di risparmio ed investimento. Oggi torniamo a fare un punto della situazione su questo tema per capire cosa significhi per voi educazione finanziaria, quali sono i canali che privilegiate nella vostra famiglia per colmare le lacune su questi argomenti. E rimaniamo anche noi nella parte di cuore tra i banchi di scuola, perché nella seconda parte del programma parleremo delle difficoltà che alcuni bambini hanno nella lettura, per loro trovarsi davanti ad un testo e come affrontare un percorso ad ostacoli, perché la risposta sta in una parola, dislessia, che oggi sarà il tema che porto alla vostra attenzione. 800 24 00 24 per raccontarci se i vostri bambini vivono la scuola con particolare fatica, ma vi invito anche a chiamarci per raccontare come avete vissuto gli anni della scuola elementare, che cosa vi ricordate di quel periodo, come ve la cavavate. Anche voi avete avuto magari delle difficoltà a leggere, a scrivere o a fare di conto? 800 24 00 24 per scoprire insieme i tempi dei nostri bambini. BOT, CCT, risparmio vincolato. Non sai bene come mettere il tuo futuro in cassaforte? Scopri come far fruttare e tutelare i tuoi risparmi. Conta su di te. A seconda della professione, dell'età e della disponibilità economica, sarà possibile definire un piano efficace per garantirti... Un tema delicatissimo. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione. Come tutti i giorni vi chiediamo di mettere a nudo i vostri difetti e le vostre debolezze sul piano dei denari. Tanto... Nicoletta, siamo in famiglia? Assolutamente, io penso che questa sia un'ottima occasione per toglierci tutti i dubbi. Esatto, quindi non vergognatevi, su cosa fate più difficoltà? Ce ne abbiamo tutti, non capite come funziona uno strumento di risparmio o di investimento? Qual è? C'è un concetto di finanza che vi è particolarmente oscuro? Non capite come funzionano le pensioni, altro tasto dolente? O uno strumento tecnologico legato alle attività bancarie o finanziarie? Noi oggi vogliamo capire quali sono i dubbi degli ascoltatori di Cuore Denari. In parte è un sondaggio anche che facciamo intranos, no? Perché ci interessa capire che sentiment c'è fra i nostri amici. Per fare altre puntate. Benissimo. Raccogliamo idee, spunti, dateceli voi, scriveteci. Bravissima. E prenotatevi al nostro numero verde oppure scriveteci al 349-238-6666 su Facebook o su Twitter. Presentiamolo però al nostro esperto, altrimenti... Sì. E qua noi siamo molto contenti. Se noi gli ascoltatori pensano che le risposte le diamo noi e qua non se, lo so. Se le dai tu siamo tranquilli. tranquilli. Ma non credo. Io posso improvvisarmi, ma ecco, per fortuna abbiamo un esperto che mi, certo, bacchetterà. Chiedo già scusa perché nel corso della trasmissione so già che sbaglierò ripetutamente l'accento sul cognome. Il professor Francesco Saita, quindi l'accento va sulla A, direttore del centro di ricerca Carefin dell'Università Bocconi e il centro attivo in diversi progetti di educazione finanziaria. Buongiorno a tutti, grazie mille. Benvenuto naturalmente. Direi di cominciare con qualche dato, le statistiche naturalmente ce ne offrono sempre tanti, non è molto confortante quello di oggi. Proprio poco tempo fa un'indagine dell'OCSE ha decretato che i giovani italiani non hanno le conoscenze sufficienti per compiere le scelte rilevanti per il loro benessere economico. Questa indagine è datata almeno un paio d'anni, ma l'elaborazione poi dei dati ha richiesto un po' di tempo ed è un'indagine che ha proprio monitorato il grado di alfabetizzazione finanziaria dei quindicenni e noi, professore, siamo finiti agli ultimi posti di questa classifica europea. Sì, per esattezza siamo finiti penultimi, avendo sotto la Colombia, il che non è chiaramente un grandissimo risultato. Quello che ha detto tra l'altro è che questa ricerca analizzava diversi tipi di aree, perché andava dal fatto del riuscire a fare calcoli tipo banalmente se poteva convenire o se poteva essere in grado di reggere un ulteriore indebitamento, ma chiedeva anche cose più semplici come il fatto di riuscire a mettere in ordine corretto di priorità dei diversi bisogni tra quelli più indispensabili e quelli meno fondamentali, o capire per quali ragioni uno poteva ricevere una fattura, che differenza ci poteva essere tra lo stipendio lordo netto, quale dei due mi trovo sul conto corrente davvero a fine mese. Quindi, come tutti i professori dicono, il compito, tra l'altro, suo figlio ha preso un'insufficienza, ha preso 3. Signora, tra l'altro il compito era davvero facilissimo e tu ti senti il cuore pesante, diceva mamma. Diciamo che c'erano domande di vari tipi di difficoltà, però sicuramente un segnale che c'è ancora parecchio da fare nel nostro paese. Vabbè. Tra l'altro è molto interessante anche capire che cosa vuol dire poi essere competenti in termini finanziari. Stai tutto a posto stamattina? Sì, sto soffocando, morirò, ma insomma muoio in diretta. No, che ne pensi della questione della competenza finanziaria? È una bella parola che chiederemo al nostro esperto di aiutarci a capire, no? Che cosa vuol dire essere competenti, sapere muoversi in questo mondo che per molti è particolarmente, io lo sto veramente esplorando con l'aiuto di Deborah e lo trovo un mondo molto affascinante verso cui abbiamo tanti preconcetti, professore. Sì, ma quello che credo sia importante è che, come per altri tipi di attività, la cosa fondamentale non è sapere tutti i dettagli o arrivare a dei livelli di competenze mostruose, quanto quello di avere le idee chiare su poche cose abbastanza relativamente semplici. Per dare un'idea, anche uno dei dati che viene citato spesso come domanda che fa capire quanto anche in altri paesi ci sia bisogno è che, per esempio, negli Stati Uniti, nelle survey fatte sugli adulti, quando si va a chiedere se tu investi al 2% di rendimento per 5 anni, non per uno ma per 5 anni, a scadenza avrai 102, più di 102 o meno di 102 se investi $100. Questa non è una domanda che richieda di per sé di dire esattamente quanto, cioè, ma semplicemente che più di 102 se prendo 2% per 5 anni, e negli Stati Uniti la sbaglia un terzo degli adulti e in altri paesi le percentuali non sono molto diverse. Quindi quando si parla di educazione finanziaria è semplicemente avere i primi livelli di rudimenti di base. La settimana scorsa a Roma il gruppo BNL BNP Paribas ha fatto proprio un punto della situazione su un progetto suo, il progetto Educare, Educare in inglese, un progetto di educazione finanziaria che si è strutturato in una serie di seminari rivolti a privati e imprese, seminari che sono stati pensati proprio con l'obiettivo di rispondere ai dubbi più importanti sui temi economici. Questo percorso è stato intrapreso dal 2008, proprio in un momento in cui fare questa operazione è stato anche molto coraggioso. Noi abbiamo sentito l'amministratore delegato Fabio Gallia che ci ha spiegato come è nata questa idea. Qualche anno fa avevo sfogliato una ricerca dell'autorità sui servizi finanziari inglese che dimostrava come anche in un paese anglosassone la conoscenza di alcuni elementi di base da parte delle famiglie fosse alquanto ridotta. Poi la curiosità mi ha portato anche ad approfondire un po' il tema a livello internazionale, abbiamo detto qua sicuramente c'è un'esigenza molto forte. Essendo noi una banca abbiamo deciso di investire in questo percorso, abbiamo iniziato nel 2008 e l'abbiamo fatto fin dall'inizio usando che cosa? La nostra rete sul territorio, per organizzare momenti di incontro durante i quali si discutevano quelli che erano proprio alcuni elementi che considero fondamentali per poter poter operare scelte nell'ambito economico e finanziario in modo consapevole. Il vantaggio di una diversificazione negli investimenti, cosa vuol dire indebitarsi a tasso fisso, a tasso variabile o addirittura in valuta, e il tema della pensione, per cui è qualcosa che è cresciuto negli anni. Dalle filiali abbiamo poi deciso di passare anche a dare questo servizio al mondo delle imprese. 80.000 persone hanno partecipato ai nostri seminari, sono stati 4.000 i seminari che abbiamo fatto in questi anni e abbiamo avuto 8.000 imprese che sono venute ad ascoltare tematiche di loro interesse. Allora, tra l'altro volevo ricordare che questo progetto non è terminato, riprenderà nei prossimi mesi, sono previsti già e fissati 12-13 appuntamenti che riguarderanno ancora famiglie ed imprese, in particolare per la famiglia sono previsti seminari sul tema del lavoro e lo studio all'estero, per le imprese i focus saranno sulle start-up, l'internazionalizzazione e l'agricoltura, tutti temi che ci piacciono molto, ma professor Saita, dobbiamo fidarci dell'educazione finanziaria fatta dalla banca? Beh, capisco che qualcuno a volte possa essere un pochino diffidente, però in realtà quello che penso è che da un lato c'è un tale fabbisogno nel nostro paese che tutte le iniziative sono benvenute, dall'altra parte per iniziative che conosco, che non sono tutte, mi sembra che ci sia veramente un interesse estremamente genuino per il paese, e penso anche che nell'ottica di una banca è importante aver chiaro che per chi è convinto di avere dei prodotti migliori, avere consumatori più competenti è un investimento per il futuro ed è un vantaggio. Devo dire che questo è un ragionamento che mi ha fatto anche Gallia nel corso appunto dell'intervista di cui abbiamo sentito un brano. Effettivamente lui mi ha fatto questo tipo di ragionamento: rende una maggiore consapevolezza fra le persone, il lavoro più facile anche a noi. Sappiamo per certo che questi seminari sono gratuiti, quindi noi insomma ci fidiamo, e poi alla fine delle lezioni non è che arriva l'impiegato a venderci il conto corrente, no, o un'obbligazione bancaria. Però devo anche dire che ci sono alcune associazioni dei consumatori, leggevo qualche comunicato stampa proprio nei giorni scorsi, che invece mette in dubbio la validità di un'operazione di questo tipo. Però siccome abbiamo tutti un po' di sale in testa, siamo in grado, credo, di capire se la banca fa un'operazione a fine commerciale o meno, e magari partecipando ad un seminario, se arriva qualcuno che vuole venderci qualcosa, possiamo alzarci ed andarcene. Ecco, no, grazie. I nostri ascoltatori ci dicono dai loro messaggi che c'è grande interesse, sì, all'educazione finanziaria, insomma a seguire dei corsi, a trovare dei siti, a raccogliere delle informazioni per diventare più competente. Lo chiedono in molti, ci dicono anche che siamo stupende. Grazie per questa trasmissione. C'è un sito, ci scrive un ascoltatore, dove si può fare un test per capire quanto si capisce di finanza. E anche Simone ci scrive che vorrebbe sottoporre il test sull'alfabetizzazione finanziaria addirittura alle sue ragazze, e quindi chiedeva a lei, professore, se ha qualche indicazione da suggerirci. Ma allora, secondo me su questo uno dei siti credo più completi soprattutto per i ragazzi è il sito www.economiascuola.it, che contiene molte delle iniziative che sono fatte a diversi livelli di scuola. Credo sia sufficiente in molti casi anche informarsi presso la scuola, presso cui sui propri figli, specie se è una scuola secondaria superiore, perché molto frequentemente ormai ci sono parecchie iniziative svolte a questo livello. Tra l'altro, per chi è della Lombardia particolarmente, perché è uno degli uffici scolastici regionali più attivi, solo noi come Bocconi siamo stati coinvolti come Carife negli ultimi due anni in un progetto grosso per City Foundation con 1.300 studenti scuola Lombardo, adesso un altro sull'educazione per i rischi con Fondazione Ania, Forum dei Consumatori. Poi i questionari sono diversi, però direi che i riferimenti di quel sito sono tutto sommato quelli migliori. E sarebbe opportuno, tu che dici, portare il Sole 24 Ore in classe, perché è un quotidiano che è per addetti ai lavori, ma assolutamente aiuta anche ad entrare nel tema e nel problema. Però sì, ci saranno anni delle iniziative sicuramente, sì. ma devo magari dire che secondo me negli ultimi anni un po' di sforzo per essere un po' più divulgativo il giornale lo ha fatto. Volevo segnalare, allora grazie per l'assist Nicoletta, dell'iniziativa che invece il Sole fa da molto tempo, curata da Fabrizio Galimberti, che è una delle più importanti firme del Sole 24 Ore, il Sole Junior, l'economia spiegata ai ragazzi. Anche oggi anche nel giornale di ieri c'è una pagina e si parla proprio di scuola italiana in stallo su economia e finanza, studenti con una marcia in meno rispetto agli altri paesi. Ma quante ne vogliamo da questi ragazzi, professore, insomma, che cosa vorremmo che sapessero a 15 anni d'altronde? Beh, diciamo, noi d'altronde a quell'età non è che fossimo poi proprio dei maghi della finanza e dell'economia. No, posso garantire, pur lavorandoci adesso a 15 anni non sapevo assolutamente niente. Posso... Ecco. Quindi ci sono delle insegna la Bocconi, quindi voglio ci dire sono c'è delle tempo, possibilità, no? Di sviluppare. E io faccio questa trasmissione, vedi tempo. Sì. No, però credo che la cosa importante anche di molti progetti che sono fatti nelle scuole è cercare di trasmettere poche idee chiare, Una che per esempio è importante banalmente è l'importanza di considerare la rilevanza del lungo periodo quanto si investe, cioè che piccole anche differenze di investimento anche su importi piccoli però per orizzonti molto lunghi come sono i 30-40 anni che ha davanti un 25enne che comincia a lavorare fanno una differenza gigantesca. L'importanza di acquisire informazioni, quindi ci sono dei siti, MEFOP e altri, dove uno può guardare e avere dati per capire che cosa prenderà quando andrà in pensione. Sono stime approssimative, ma uno un minimo di idea se la fa, e questo può motivare molto a investire di più in ricerca. Noi, per esempio, nel progetto fatto con City Foundation, anche se era educazione finanziaria, avevamo una sezione di educazione demografica dove cercavamo di dare alcuni dati su di quanto si allunga la speranza di vita delle persone, che è una cosa ottima, favolosa. Questa è più per la sezione cuore della trasmissione. Lo inviteremo, vede, la prossima volta viene come ospite di cuore. Assolutamente. E sotto questa parte, per esempio, è molto importante, perché quando uno lo capisce, capisce che l'esigenza che ha di pianificare per il lungo termine è molto più alta. Così come, ad esempio, se uno ragiona su piccoli cambiamenti demografici, qua mi metto più nei panni della persona della mia generazione di mezza età, dove il fatto che ci siano meno figli per famiglia vuol dire che mediamente ognuno di noi avrà più bisogno di assistenza da anziani di quanto non sia stata per la generazione dei nostri genitori. Questi sono temi nuovi e davvero molto importanti, di cui è bene abbia una consapevolezza la collettività tutta. Ci metterei anche qualche lezione su un uso esagerato del telefonino. Bisogna che le famiglie facciano capire quanto sia anche lo sforzo finanziario che qualche volta la stessa famiglia fa per dotare il bambino di tutta la strumentazione tecnologica di cui oggi a quanto pare non si possa fare a meno. Quindi insomma il lavoro che riguarda anche i soldi è secondo me a 360 Alcuni incontri che mi è capitato di fare anche sul tema proprio educazione finanziaria ragazzi / bambini, anche con psicologi dell'età infantile, il discorso di capire che a una certa età che uno sia un pochino responsabile del suo budget sul telefono a fronte di una piccola paghetta, anche solo in parte, è una cosa che comunque su un aspetto terribilmente tangibile educa i ragazzi a essere un po' più responsabili. Esatto. Abbiamo fatto anche delle belle puntate sulla paghetta con Nicoletta e sono venute fuori davvero tante ricette originali da parte paghetta di molte mamme Nicoletta. E papà. Cuore e denari. Quando ero piccolo, leggevo lentissimo e i miei compagni di scuola si divertivano a sfottermi. Io mi vergognavo da morire. Voglio che tu mi legga questo brano della dichiarazione di indipendenza. La dichiarazione di indipendenza è stata firmata dai memori. Stanley, c'è scritto firmata dai membri. Un bambino che fa fatica a leggere oppure a scrivere o ancora a far di conto non è sempre un bambino pigro, svogliato o, come si dice in altre faccende, affaccendato. Potrebbe aver bisogno di un po' di tempo, di un po' di aiuto, ma talvolta dietro alle difficoltà dei nostri bambini si possono nascondere i disturbi specifici dell'apprendimento. Ne avete esperienza? Ne avete il sospetto? 800 24 00 24. Oggi insieme al professor Stella ci sediamo tra i banchi di scuola insieme ai nostri bambini, ci occupiamo dei bambini di prima e seconda elementare, a che punto sono arrivati del programma, quali difficoltà incontrano, in quale materie eccellono. Noi vi aspettiamo per confrontarci con voi e per chiedere soprattutto al nostro esperto di indicarci un po' quel limite tra un disturbo specifico di apprendimento e invece un momento in cui il bambino ha delle defaianze, deve avere più tempo e più cure e più attenzione da parte dei docenti e dei genitori a casa. Da piccolo, ti sei mai chiesto da dove arrivano i soldi e qual era il loro valore? No, vero? Questo perché non ci pensavi. Proprio come non ci pensano i tuoi figli. È normale. Forse però è arrivato il momento. Infatti, è un po' come il campo dei miracoli del gatto e la volpe di Pinocchio. Noi continuiamo questa mattina a parlare di educazione finanziaria per la pagina di Denari. Da dove partiamo per conoscere le nozioni economiche di base che riguardano e condizionano la nostra vita? Vi stiamo coinvolgendo su questo argomento e voi siete già pronti ad intervenire all'800 24 00 24. Continuate a segnalarci qual è il vostro dubbio per eccellenza, quel concetto che magari vi siete già fatti spiegare spiegare tante volte e non vi è mai entrato in testa. C'è un ascoltatore che oggi mi appoggia, perché anch'io volevo raccontare del fatto che per capire la dinamica del rendimento di un'obbligazione, il suo rapporto con il prezzo, ci ho messo un po' di tempo, professor Saita. Ecco, quindi glielo confesso questa mattina molto candidamente. Giorgio da Bari, benvenuto. Eccolo qua, ha aspettato un po' e quindi ci ha lasciato, però credo che volesse intervenire su questo argomento, adesso lo ripeschiamo. Facciamo intervenire Laura. Laura, buongiorno, ci chiama da Udine, benvenuta. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Signore, voi siete veramente simpatiche. Oh, grazie Laura, anche lei, ma, a dirlo. No, ma lo so perché, perché anche quando parlate di malattie o di denaro che si sta perdendo, voi ci date speranza. Ecco perché veramente io seguo questa trasmissione e anche altre. Allora, io ho questo mio pensiero. Io sono sempre stata abbastanza brava a scuola, avevo 8 in latino, matematica, non ho mai avuto problemi. E io dico, economia me ne intendo abbastanza. Ma poiché io ho 76 anni e ho studiato francese e tedesco, io l'inglese non lo so. Quando c'è un vocabolo in inglese io mi perdo, e così non solo nell'economia ma anche nella politica. Ecco, perché non si parla italiano, per piacere? Ecco, io ho finito, vi ringrazio. Grazie Laura. Grazie Laura. Professor Saita, che ne pensa di questa osservazione di questa ascoltatrice? Probabilmente magari un ragazzo di 20 anni che ha più freschezza e più padronanza della lingua inglese forse fa meno fatica, però certo che parlare sempre di spread, Jobs Act e quanti altri, il dividend yield e quanti altri ancora, forse effettivamente se il linguaggio fosse quello nostro, forse gli italiani avrebbero meno problemi con i concetti di economia, meno problemi ad afferrarli, o certo. È questione di buona volontà e ma basta. Su questo secondo me è un problema di effetti generale, come diceva correttamente la signora Laura, perché vale da qualsiasi punto la si guardi, su qualsiasi tema. Credo che su questo l'unica cosa che si possa fare, oltre ad avere un po' di attenzione, in effetti quando si comunica, saper usare la parola italiana quando c'è, e che aiutano molto per esempio sulla parte di economia certi glossari anche che sono recuperabili su internet, schiavizzando giustamente il nipote opportuno quando può essere il caso, e che tante volte ci aiutano a capire che magari dentro una terminologia tecnica c'è un'idea molto semplice che possiamo capire con facilità. Tra l'altro, insieme a Nicoletta stavamo guardando anche tutti i messaggi che stanno arrivando, e c'è chi appunto osserva che sarebbe necessario fare più incontri, addirittura un programma didattico quotidiano. Quello che io vorrei dire è che se ci impegniamo invece un attimo a guardarci attorno, secondo me iniziative attorno a noi per poterci parecchio formare ce ne sono, e quindi un po', dicevamo Nicoletta, basta lamentarci e dire quello che non si fa, andiamo ad apprezzare quello che abbiamo attorno a noi e che si fa. Professor Saita, se oggi avessimo stuzzicato qualcuno, no? E che da domani vuole impegnarsi a capire un po' di più delle sue questioni economiche, finanziarie e personali, secondo lei che cosa deve fare? Allora, prima di andare in banca, se abbiamo il sospetto che la banca abbia un conflitto di interesse, cosa possiamo fare? Allora, faccio una piccola lista della spesa. Sotto questo profilo faccio un esempio al quale so che sei anche tu abbastanza affezionata, ma credo sia uno dei più chiari, che è quello dell'automobile. Cioè nella situazione in cui uno deve comprare un'automobile nuova e fondamentalmente non è un grandissimo esperto, quello che può fare è un po' un mix di tre cose. Cioè, uno è confrontare comunque concessionari e produttori diversi, farsi raccontare un attimo quali sono i pregi della macchina, provare a chiedere anche quali sono i difetti, vedere se uno risponde e dice qualcosa, e vale anche sui prodotti finanziari, perché qualsiasi tipo di scelta finanziaria dei pro e dei contro. La seconda cosa è cercare di leggere la parte più accessibile del quattro ruote di turno, che nel caso è appunto la parte più divulgativa di molta stampa finanziaria, che secondo me su questo concordo sta facendo un ottimo lavoro negli ultimi anni. La terza è quella di parlare con i propri amici un po' più esperti, così come nel caso dell'automobile, se uno si ferma al primo posso avere quello che è appassionato in maniera sfegatata ed è convinto di essere straesperto ma non lo è. Anche sotto questo profilo sentire più di una campana è una delle cose più importanti. Oltre a questo appunto poi c'è la possibilità di cercare alcune delle iniziative che sono riferite agli adulti. tra quelle che possiamo citare c'era quella di BNL che citavi prima, c'è per esempio la fondazione che ha diciamo che è l'evoluzione di Patti Chiari, che è la fondazione per l'educazione finanziaria e risparmio, che spesso organizza incontri anche per adulti insieme all'associazione dei consumatori, quindi direi nel modo più neutro che uno possa immaginare, ma così come c'era la possibilità di imparare dalle iniziative fatte per i ragazzi, le iniziative fatte da BNL o da Bocconi o da Banca d'Italia per i ragazzi, uno degli obiettivi è anche quello di condividere la parte con i genitori. Se uno cerca su Google educazione finanziaria e la propria città, sicuramente qualche cosa esce. Allora, vorrei ritornare per un attimo all'iniziativa di cui parlavamo poco fa di BNL Educare. Questo programma quest'anno è stato esteso anche ai più piccoli delle scuole elementari. Educare Scuola, un'iniziativa rivolta a 125.000 alunni di scuole primarie pubbliche presenti in 24 province italiane. Sentiamo su questo punto di nuovo Fabio Gallia. Abbiamo deciso di attraversare il paese da nord a sud coinvolgendo tante persone, e quindi lo scopo è quello di entrare con un prodotto dedicato che sono dei libri, e avendo evidentemente formato anche gli insegnanti per poi poter erogare in qualche modo questa didattica. Partiremo fra pochi giorni, siamo molto contenti, penso di poter dire anche orgogliosi di questa iniziativa, pensiamo di fare qualcosa di nuovo non soltanto per il nostro paese, ma abbiamo visto anche a livello internazionale di questa dimensione non abbiamo trovato grandi evidenze. Noi siamo una banca, noi dovessimo immaginare un'iniziativa così da soli non saremmo in grado di farla, per cui è nata così la collaborazione con Giunti Editore, in particolare con Sergio Giunti, il suo presidente, con cui abbiamo appunto condiviso lo spirito di questa iniziativa. Abbiamo visto che era qualcosa che poteva non soltanto avere interesse dal nostro punto di vista, ma poi interesse anche dal punto di vista del corpo docente. Continuate a chiamarci 800 24 00 24 o a scriverci al 349 238 6666. Deborah, questa puntata sull'educazione finanziaria piace molto ai nostri ascoltatori, chiedono di averne altre con un linguaggio molto chiaro. Complimenti anche al nostro esperto che viene salutato da più sms. Che richiameremo, esatto, è vero. E qui hanno, diciamo, all'ascoltatore che lo saluta, esatto, infatti, che è ricambiato il saluto. Avevi qualche osservazione? Sì. Volevo chiedere al professore se possiamo considerare come cultura finanziaria anche il sapere di non sapere. Guardi, questa è una domanda veramente molto importante, la risposta è sì, nel senso che secondo me uno degli aspetti molto importanti, questo vale anche nella ricerca che viene fatta su questi temi da noi accademici, è il fatto di riuscire a essere coscienti di quanto si sa, quindi all'interno del non sapere ci sono diversi livelli di graduatorie, e cioè essere ragionevoli nel valutare il proprio livello di competenza, perché ci sono tipicamente due grossi rischi, cioè chi tende a ritenersi più cosciente, più competente di quanto è erroneamente, di solito fa scelte avventate, prende troppi rischi, si lancia troppo valutando troppo poco gli elementi e poi se ne pente. Chi è troppo poco convinto dei propri mezzi, quello che normalmente fa è di investire in attività a bassissimo rischio ma anche a bassissimo rendimento, il che può essere un problema, perché per un giovane che deve integrare quello che prenderà per la pensione, investire tutto in liquidità per 40 anni probabilmente prendendo meno dell'inflazione vuol dire farsi del male. E a volte questo è l'effetto di essere troppo poco confidenti, quindi è molto importante avere un approccio equilibrato, tenendo presente come anche una cosa. Come facciamo però a capire se siamo nel primo caso, cioè se pensiamo di sapere troppo o se questa nostra insicurezza poi è eccessiva e quindi ci porta a un danno? Come possiamo valutare il nostro sapere di non sapere o il nostro sapere? Secondo me vale sempre molto il confronto che c'è con gli altri. Faccio un esempio, vale nel caso dell'automobile, vale nel caso della scelta dell'università o del proprio percorso professionale. Tantissime volte secondo me il problema è che uno ragiona per sentito dire, confrontandosi con un nucleo troppo ristretto di persone si convince automaticamente come certezza di fede di alcune cose che in realtà non sono vere, perché cerca poco delle persone che lo mettano in dubbio anche nelle sue convinzioni. Se stiamo su cose semplici, direi che una prima cosa per capire se so abbastanza è capire se ho chiaro quali sono le caratteristiche della gamma dei prodotti che ho davanti come investitore, che vuol dire per esempio capire un fondo comune come funziona, sapere nel fondo comune dove ho investito se so quali sono i costi, se ho una vaga idea se il fondo sia andato meglio o peggio dei suoi concorrenti, non negli ultimi due giorni o nell'ultima settimana, esatto, ma negli ultimi cinque anni, che sono elementi abbastanza importanti. Non sapere se nel fondo che ho investito ci sono commissioni di performance o no, commissioni di uscita, è un segnale che non ho dedicato molto tempo a questo tema. Se posso fare un paragone, come quando uno deve scegliere a un problema dal punto di vista medico, dove non è che deve essere in condizioni di auto-operarsi da solo, sì, ma deve saper scegliere il medico nelle cui mani mettersi, e più il problema è importante più tempo dedica a capire quel minimo che lo porta a dire se va nell'ospedale A o nell'ospedale B. Dovremmo sviluppare un pochino di più questo tipo di attenzione anche nei confronti dei temi di finanza. Hai visto come si è ben cimentato nel suo esordio di Cuore Denari, il nostro, guarda, professor Saita. Io ho capito, il professor Saita vuole essere invitato una volta anche nella parte di cuore. Noi lo inviteremo, si prepari e che poi la interroghiamo. Molto abbiamo volentieri terminato la nostra parte, grazie professore, buon lavoro con il vostro centro di ricerca Carefin, che sta per? Center for Applied Research in Finance, e queste è in parole inglese, ci scusiamo, ma purtroppo abbiamo un po' di reputazione internazionale dove dobbiamo usare un nome in inglese per questo. Grazie, ci risentiamo presto, buon grazie lavoro. Grazie a voi davvero. Buona giornata. Cuore e denari. Scuola voglio subito imparare a leggere, domani a scrivere, domall'altro a fare i numeri e bene fa. A scuola si impara a leggere, a scrivere, a far di conto, tutto si gioca proprio nei primi anni di scuola. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Giacomo Stella. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professore di psicologia clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia e fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia. Professore, l'apprendimento procede a tappe, ma con delle differenze individuali, quindi in sostanza diamo tempo al tempo, non parliamo subito di difficoltà. Ad esempio, per un bambino che ha iniziato la prima elementare, abbiamo anticipato ai nostri ascoltatori che oggi ci occupiamo dei bambini che frequentano la prima e la seconda elementare. Un bambino, una bambina che ha iniziato a frequentare la prima elementare, adesso a questo punto dell'anno, che competenza dovrebbe avere? Beh, diciamo che dal punto dipende dalle esperienze fatte in precedenza, perché c'è una situazione molto variabile. Per esempio, qualche volta nella scuola dell'infanzia introducono degli elementi di gioco fonologico cosiddetto, per cui i bambini arrivano a scuola e a volte sanno già scrivere alcune parole semplici, e magari hanno dei fratelli più grandi in casa, quindi la situazione è molto varia, ma sì, se noi prendiamo ipoteticamente un bambino che non ha mai visto, anche se oggi è molto difficile, o mai avuto istruzioni esplicite sull'apprendimento della lettura e scrittura, questo, in virtù della semplicità del nostro sistema ortografico, in pochissimi mesi risulta stabilizzato. Quindi oggi i bambini, dopo un mese e mezzo di scuola, cominciano già a saper scrivere qualche prima piccola parolina. Bene. Ecco, diciamo. Rispetto ai bambini delle passate generazioni sono più avanti, c'è stato il periodo delle aste che continua, vero? Professore. I regoli. Ecco, aste su aste. Il periodo delle aste, sì, è un periodo che è passato ovviamente, meno perché male. Ci sono, no, ma no? Guardi che non sarebbe negativo, bisogna farlo prima, per esempio alla scuola dell'infanzia una attività di esercizio grafomotorio non sarebbe per niente negativa, mentre delle volte ci si butta subito a insegnare a scrivere in anticipo, ecco, sarebbe utile fare. Poi oggi si dice sempre i bambini hanno una grafia, i bambini, ma nella scuola infanzia sarebbe molto utile fare delle attività di pre-grafismo, per esempio. Si può dire che i bambini oggi leggono e scrivono prima degli altri, prima di quanto non accadesse a noi? Da un certo punto di vista sì, perché abbiamo una più precoce esposizione alla scrittura, cioè il bambino anche a 3 anni vede qualcosa di scritto, mentre in passato non vedeva. Il bambino chiede, vuole informarsi, oggi poi che ci sono tanti strumenti anche elettronici, ovviamente il bambino sa riconoscere delle icone, non solo la famosa icona di una bibita o di un panino, ma molte altre icone, per cui in qualche modo immagazzina sia pure in modo logografico la lingua scritta, cosa che 50 anni fa non era pensabile. Ricordo solo il nostro numero verde 800 24 00 24 aperto ai genitori, ai nonni, agli zii, ma anche a chi vuole solo raccontarci se ha vissuto il periodo delle aste, come se la cavava a scuola. Professor Stella, avevo una curiosità per lei. Prima Nicoletta le chiedeva in questa fase dell'anno scolastico, a questo punto un bambino che ha iniziato la prima elementare, che competenze dovrebbe avere? Ma le chiedo anche, per esempio, stavo pensando un po' a mio nipote che fa i compiti di pomeriggio, seconda elementare, si impegna sempre molto, molto, molto bravo, si vuole anche sbrigare a farli perché poi naturalmente vuole dedicare il tempo che desidera al gioco. Qual è il giusto grado di concentrazione che un bambino dovrebbe avere a questa età? Il grado di applicazione ai compiti, alle attività scolastiche dipende da, se lei intende dire per quante ore dovrebbe applicarsi un bambino, la risposta è difficile da dare, nel senso che il bambino anche quando gioca ragiona, quindi l'attività cognitiva si sviluppa nell'arco di tutta la giornata. Questo significa che se noi riusciamo ad attirare, a fare delle proposte attraenti ai bambini, loro possono applicarsi alle attività di apprendimento anche per tutta la giornata. Questo non vuol dire che uno deve stare solo sui quaderni, perché uno degli errori che si fa è pensare che l'apprendimento sia solo mediato dal quaderno, dalla matita o dalla penna o dai libri. Oggi ci sono tantissimi altri modi per apprendere, ma non solo oggi, anche in passato, solo che noi non ne siamo completamente al corrente, non siamo abituati a osservarli. Ma diciamo che l'attività pomeridiana, comunque più di 2 ore al giorno o 3 ore al giorno applicata alle attività scolastiche, non è utile, perché c'è un livello di apprendimento che poi richiede un tempo di consolidamento, quindi oltre le 3 ore non andrei. Insomma. Oltre le 3 ore non andrei, ecco, no, che sono tante. Ore consecutive, ecco, perché 3 ore, dicendo, mamma mia. Tra l'altro, professore, prima di andare a dare la linea al nostro GR, volevo segnalare anche un bellissimo progetto che si chiama Scuola Amica. Esatto. Ce ne vuole parlare, dato che lei l'ha ideato? Ma guardi, sì, ma stavo per dirlo prima, no? Perché è diventato timido, professore, ha detto non lo dico. No, è una cosa che vogliamo far conoscere, perché grazie, è un bellissimo progetto. No, se ce lo racconti in un minuto, ce la facciamo. In un minuto? Sì, perché quello poi... che i bambini che hanno difficoltà ad apprendere ci hanno aiutato a capire è che la scuola oggi si limita a insegnare e poi l'apprendimento è affidato alle famiglie a casa. Quindi se qualcuno ha delle difficoltà di apprendimento, poi la ricaduta è anche a scuola. Allora, il nostro progetto Scuola Amica, che riguarda sia la scuola primaria che soprattutto la scuola secondaria di primo grado, cioè la scuola media per intendersi, vuol dire stiamo a scuola tutto il giorno, niente compiti a casa, le famiglie sono sollevate da questo onere che a volte diventa un incubo quando sì. I bambini hanno delle difficoltà, perché quando non hanno difficoltà si arrangiano da soli, quindi non è nessun incubo. Certo. E poi invece a casa, con altre modalità, un approfondimento utilizzando il multimedia, cioè utilizzando degli strumenti che i bambini accettano volentieri di utilizzare perché li sanno utilizzare. Certo, e continueremo a parlare di questo, ma soprattutto delle difficoltà dei nostri bambini a scuola, a leggere, a scrivere, a fare di conto. 800 24 00 24, vi aspettiamo dopo il GR insieme a Deborah. Cuore e denari. Quando lei legge APPL e mela, lei immagina una bella mela, vero? Isha non riesce a leggere la parola e non capisce che significa. Per leggere e scrivere è importante capire il suono e la grafia, come è importante capirne il significato. Lui non mette in pratica le capacità di base. Che sta dicendo? Le sue sono tutte scuse per non studiare. Siamo tornati insieme oggi, puntata dedicata ai nostri bambini e alle difficoltà che incontrano a scuola. Ci aiuta un grande esperto, il professor Giacomo Stella, professore di psicologia clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia e fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia. Arriviamo a questa parola, professore, dislessia. Specifichiamo che non ha nulla a che fare con l'intelligenza, perché ormai è ampiamente dimostrato che il bambino dislessico può spesso, in alcuni casi, avere un quoziente intellettivo addirittura superiore a chi invece dislessico non è. Vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori quali sono i segnali che possono indurci a pensare che dietro quella difficoltà del nostro bambino non c'è solamente la pigrizia o magari dei tempi più lunghi che richiede nell'apprendere, ma un disturbo specifico dell'apprendimento? Sì, lei ha fatto bene a sottolineare soprattutto questo aspetto. Sono bambini brillanti in genere, che quindi si relazionano normalmente con gli adulti, giocano con gli altri bambini, improvvisamente quando devono applicarsi alla scrittura, alla lettura e spesso al calcolo, perché prima non l'abbiamo nominato, ma anche il calcolo in prima elementare può essere un segnale di allarme, le capacità per esempio di contare agevolmente fino al 10 o fino al 20 sono un segnale di allarme. Allora, che cosa succede? Come si manifesta questo problema in atteso? Sì. Per il fatto che il bambino, che di solito apprende con molta, diciamo, desiderio, perché tutti i bambini verso la scoperta hanno un'attrazione, almeno fino all'adolescenza, ma anche oltre in realtà, siamo noi adulti che non sappiamo sfruttarla, e quindi i bambini hanno questo atteggiamento di assorbire tutto quello che l'insegnante dice, invece coloro che hanno una difficoltà istintivamente rifiutano questo tipo di attività, e soprattutto perché la vedono come una difficoltà insormontabile, cioè il bambino che non riesce a riprodurre una lettera nemmeno copiandola, per sì, esempio, oppure che non riesce a scrivere correttamente nemmeno il suo nome, oppure appunto che non riesce facilmente a contare oltre il 10 oppure all'indietro dal 10, o che non riesce a scrivere i numeri, o che non riesce nemmeno a fare un piccolo calcolo 2 più 2, anche se in realtà si manifesta come un bambino intelligente. Allora, la risposta più semplice che viene data e più intuitiva che viene data da un docente è sempre: ma forse non ne ha voglia, perché certo, quando lo vedo giocare lo vedo come un bambino del tutto uguale ai suoi compagni. Perché è uguale, allora, assolutamente ai suoi compagni. Ma perché lo è, questo si chiama disturbo specifico di apprendimento, perché si manifesta in un ambito specifico, quindi laddove c'è di mezzo il codice scritto, sia che si tratti di numerico o che si tratti di un codice alfabetico, questi bambini purtroppo, per motivi che oggi le neuroscienze hanno messo in rilievo in modo molto preciso, hanno alcune difficoltà. E queste difficoltà, se non vengono percepite subito, se i bambini vengono colpevolizzati, naturalmente tendono a cronicizzarsi, purtroppo. Certo. Quindi è molto importante accorgersi precocemente. Lo faremo anche un po' con le telefonate dei nostri ascoltatori che stanno arrivando all'800 24 00 24. Spazio alle telefonate vostre, ai vostri dubbi. Prima di dar la linea, leggiamo Chicco Nonno su Twitter che cosa ci ha scritto. Che suo nipotino invertiva le parole. Il suo cane Pongo diventava Gopon. Tutto si è risolto naturalmente adesso. Questo ragazzo è all'università. Allora, diamo subito la linea a Sabrina che ci sta aspettando da Treviso. Buongiorno, Sabrina. Sabrina. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. Io mi trovo perfettamente in quello che raccontava il professore, perché ho un figlio dislessico di 17 anni che comunque sta frequentando le superiori, sì, e poi ho due gemelli e nella bambina di 9 anni intravedo quelle difficoltà che ho visto nel figlio maggiore. Devo dire che può essere un po' un incubo, ma più che altro se non viene riconosciuto, nel senso che io alle elementari mi ero attivata per ben due volte l'ULS, perché mi ero informata tramite web e sono anche associata associata all'Associazione Dislessia Italiana, e purtroppo l'ULS non aveva riconosciuto questa difficoltà. Poi ho insistito alle medie tramite un'associazione privata e là per fortunatamente ho avuto la certificazione, quindi è stato riconosciuto, diciamo, questa difficoltà. Non che le cose poi si risolvano, però quantomeno capisci che puoi fare qualcosa per tuo figlio e cominci a informarti su cosa fare. Molto spesso purtroppo la scuola, è vero, insegna ma non aiuta poi ad apprendere, e quindi vedo magari nella bambina che segue adesso, che però ancora non è riconosciuta, il fatto che comunque è il genitore che deve farsi carico di capire il problema, cioè, e trovare la stiamo perdendo un po' come voce, ma abbiamo capito il concetto. Professor Stella, un cammino abbastanza tortuoso e faticoso quello raccontato da Sabrina. Adesso le cose sono cambiate? Quando un genitore può avere il sospetto? Sì, sì e no, sì e no. Che cosa oggi si deve fare concretamente per evitare? C'è una legge, dal 2010 c'è la legge 170, che dice una cosa importante rispetto alla tematica di oggi, visto che ci occupiamo del primo ciclo, cioè prima e seconda elementare. Dice una cosa veramente nuova e importante, e cioè gli insegnanti non devono aspettare le diagnosi degli specialisti. Devono essere messi in grado di capire se un bambino è più lento attraverso la formazione, ma non per marginalizzarlo, ma al contrario, per capire che quello è il bambino che ha più bisogno di loro e che quello è il bambino a cui bisogna aiutare, anche insegnare anche ad apprendere, non solo insegnare. Ma insegnare ad apprendere, perché i bambini che hanno un disturbo di apprendimento hanno bisogno di essere aiutati ad apprendere. Quindi cosa dice la legge? Dice fate degli progetti di identificazione precoce, che significa in sostanza l'insegnante si accorge se un bambino ha delle difficoltà. Il problema è l'interpretazione sbagliata che c'era fino a questi anni, appunto, come è stato detto stamattina, è pigro, non ne ha voglia. Oggi è sbagliato. Esatto, è sbogliato, mentre oggi sappiamo che c'è anche che è meglio, prima di colpevolizzare sulla motivazione, bisogna riflettere, ma non, sottolineo ancora una volta, non per dire tu hai un problema e mettere troppo precocemente un'etichetta in fronte al bambino che dopo si fa molta difficoltà a toglierla, ma invece perché i bambini che hanno disturbi di apprendimento sono quelli che hanno veramente bisogno degli insegnanti. Io dico sempre che gli altri bambini, senza offesa per gli insegnanti, che anzi è la figura più importante per le famiglie per almeno 15 anni di vita dei nostri figli, ma i bambini che non hanno disturbi di apprendimento sono bambini che apprendono in ogni modo, con qualunque programma, con qualunque metodo. Io dico sempre apprendono anche senza gli insegnanti, basta che ci sia qualcuno che li espone quotidianamente a uno stimolo. I bambini che invece hanno disturbi di apprendimento sono quelli che hanno bisogno degli insegnanti, quindi bisogna rovesciare questa prospettiva. A volte gli insegnanti, come dire, chiedono la diagnosi per mettersi al riparo, no? E invece sono loro le figure importanti, come diceva Daniel Pennac nel suo libro Diario di scuola, in cui descrive le sue difficoltà. Lui dice: ringrazio gli insegnanti perché sono loro che mi hanno aiutato a tirarmi fuori. Sono delle figure chiave che assolutamente, e che noi invitiamo, magari c'è qualche insegnante all'ascolto, di iniziate a chiamarci all'800 24 00 24. Forse ce l'abbiamo, è Marina da Bologna. Buongiorno Marina. Buongiorno, grazie. Vede, pensavo a lei e lei c'è. Subito si è materializzata. Magnifico, Marina, ecco. Beh, io vedo un po' da tutte e due le parti, perché sono un'insegnante e sono anche la mamma di un bambino dislessico. Scusate, sono un po' emozionata. E quindi, diciamo, mi è capitato sia di valutare dei bambini dislessici, sia appunto di affrontare tutti i giorni la scuola assieme a questo mio bimbo che ha questo problema e gli è stato riconosciuto il primo anno della scuola elementare. E devo dire che ho sempre incontrato dei docenti molto disponibili ad aiutarlo, a fargli compiti facilitati, ma il problema è il momento della valutazione, perché nel momento della valutazione viene penalizzato in quanto appunto ha dei compiti facilitati o abbreviati. questo ha portato mio figlio a essere molto poco motivato, nel senso che studia tantissimo e i risultati sono sempre dei voti non all'altezza della quantità di studio che lui, in cui lui si impegna. E quindi diciamo che la passione che aveva per lo studio, e che devo dire la curiosità gli è rimasta, ma la passione un po' l'ha abbandonata. Si è un po' spenta. Esatto. E, cioè lui sa già che qualsiasi impegno avrà, il voto sarà sempre più basso. E so questo è demotivante. Esatto. Tra l'altro vedo l'altra mia bambina che invece studia pochissimo, ha voti altissimi. E siccome sono anche un insegnante, io mi chiedo come faccio a valutare un bambino? Chi devo valutare? La bravura, l'impegno? Come si può essere equi in questo caso? Perché mi chiedo sempre cosa direbbero gli altri alunni miei o gli altri compagni di classe di mio figlio nel momento in cui vedono che ha un compito facilitato e ha un voto alto. Certo, il problema della valutazione, professor Stella, lei che ne pensa? Sì, io penso che l'insegnante debba nella sua autonomia assumersi la responsabilità di valutare in modo differenziato le cose, ma nella direzione opposta a quella che viene fatta oggi, e cioè quello che dice questa mamma con grande chiarezza, perché la ringrazio per il suo contributo, perché oltre che mamma è anche insegnante. È la verità, io sento anche i ragazzi di 14-15 anni che mi dicono: ma perché mi devo impegnare tanto? Anche se vado bene, alla fine l'insegnante mi dice: sì, ma tu hai usato la tavola pitagorica, quindi ti do 6. Allora, è come se a me togliessero gli occhiali, no? Se mi tolgono gli occhiali non riesco a fare niente, se mi metto gli occhiali non è che vede meglio degli altri, perché no, ma soprattutto mi danno un voto diverso perché sono avvantaggiato rispetto a quelli che non ci vedono, che vedono senza occhiali, capisce? Cioè veramente, quindi questo, perché la signora parlava di prove facilitate, in realtà molto spesso non si tratta di prove facilitate, si tratta solo di dare degli strumenti compensativi, che significa di metterli una tavola pitagorica, una linea dei numeri, un elenco di regole. Io dico sempre agli docenti: ma che problema avete? Quando andavo a scuola io questo c'era dietro a tutti i quaderni, nessuno mi ha mai impedito di guardarli. È vero, c'era dietro ai quaderni. Quindi si tratta semplicemente di avere avere formazione su come avviene l'apprendimento, perché l'idea è che bisogna avere tutto in memoria. Vede, per esempio, il problema della memoria nei soggetti dislessici, addirittura ci sono oggi delle ricerche che dimostrano che i dislessici hanno in generale due problemi: uno, quello della memoria di lavoro, cioè della capacità di manipolare le informazioni che si trattengono in memoria, è come dire, se le faccio un esempio di questo genere per farsi capire, è come scrivere un numero sul bagnasciuga e resta lì il tempo necessario per scriverlo, poi arriva l'onda e lo cancella. Invece i bambini con disturbo d'apprendimento è come se scrivessimo sulla sabbia asciutta, quindi non c'è nemmeno il tempo di rielaborarlo e spesso di trascriverlo. Il secondo problema che è stato messo in risalto dalle neuroscienze oggi è il consolidamento delle informazioni. Ci sono degli studi fatti addirittura su studenti universitari con dislessia che dimostrano che nell'apprendimento di un compito motorio, il giorno dopo i soggetti dislessici lo hanno dimenticato, mentre i non dislessici non lo hanno dimenticato. Stiamo parlando di ragazzi di 18 anni. Quindi gli insegnanti devono capire che gli strumenti compensativi mi servono per sopperire a una mia caratteristica personale e quindi per mettermi a livello degli altri, non per facilitarmi, non per semplificare. Io credo, professor Stella, che la sua risposta abbia dato molta speranza anche alla mamma, rassicurazione. Ci sono davvero tantissime telefonate, ma Deborah, Esatto, una curiosità, professor Stella, perché i casi di dislessia, a giudicare quello che leggiamo, sono aumentati. C'è persino chi polemizza, no, sul numero delle diagnosi, quasi come a dire che la dislessia è persino troppo diffusa per essere vera. È così? Ne sentiamo più parlare o c'è veramente un aumento? aumento della questione, allora, del problema. Cerco di dare una risposta breve. Grazie. Sì. Dunque, intanto esiste in Italia l'incidenza del disturbo di lettura è più bassa che negli altri paesi perché noi abbiamo un'ortografia più regolare. In Inghilterra abbiamo l'8%, noi abbiamo il 3,5%. Si fanno troppe diagnosi? Ho due risposte. Primo, non è vero, perché il Ministero ha segnalato l'anno scorso la percentuale di diagnosi è dell'1,2% della popolazione scolastica, quindi manca ancora il 2%, c'è ancora in giro, lei tenga conto un 2% non diagnosticato. Siccome gli studenti sono più di 7 milioni, circa 140.000 studenti vanno a scuola con difficoltà senza averla diagnosi. Secondo punto però, questa richiesta un po' accentuata di diagnosi da parte delle famiglie, non è che in fondo, mi dico io, è una risposta a un irrigidimento della scuola che vuole a tutti i costi, per cambiare la sua didattica, che qualcuno certifichi qualcosa? E per questo il progetto Scuola Amica, capisce? Perché io voglio una scuola in cui non ci siano bisogno delle certificazioni. La scuola deve aiutare i bambini ad apprendere, soprattutto coloro che hanno difficoltà. È stato molto chiaro. Professore, un SMS ci scrive, un ascoltatore ci scrive se c'è correlazione tra dislessia e rovesciamento delle lettere nella scrittura al computer. E quindi apre un po' il problema anche per dislessici non diagnosticati che ora sono diventati grandi, hanno magari in qualche modo trovato il modo per così compensare questo loro problema, ma si trascinano qualche difficoltà nel corso, non so, della loro vita lavorativa, nella scrittura. C'è una relazione dislessia? La dislessia è un fenomeno complesso, ci sono certamente delle forme che hanno più un'origine di tipo visual dispercettivo e quindi i soggetti tendono a confondere la P con la B, la A con la E, la M con la N, eccetera, lettere visivamente simili. E quindi questa difficoltà si mantiene nel tempo e si può riprodurre anche utilizzando gli strumenti come il computer. C'è chi invece ha una maggiore difficoltà sul versante fonologico, cioè del riconoscimento uditivo, allora confonde invece lettere come la F e la V, che non sono visivamente simili, ma fonologicamente simili. Professore, noi dobbiamo salutarla perché dobbiamo dare la linea al GR, ma intanto volevamo ringraziarla per essere state con noi. Esatto. La invitiamo naturalmente di nuovo a tornare, perché sono molti genitori naturalmente che avrebbero avuto il piacere di conversare con lei, per cui e invito che aperto. Naturalmente possono scriverci a Cuore Denari. Professor Stella, grazie, buona giornata. Molte. Grazie a voi. Grazie a voi. Marco Lombardo, Laura Vanossi, come sempre oggi in regia Paolo Corleoni. Vedo di là che comunque si nasconde anche Fabio. In ogni caso noi torniamo domani, Nicoletta. A domani, buon pomeriggio. Cuore e Denari.